sinistra unita per Bologna ha chiesto l'incontro al capo della questura di Bologna per capire che cosa succede, ma soprattutto per esporre tutta la nostra attenzione per quello che oggi l'operato fondamentalmente la polizia in città e per quello che abbiamo letto tutti sui giornali e ascoltato anche su Radio Città Fugito. E in particolar modo abbiamo voluto capire questa questione delle identificazioni per strada fatte a giovani e a giovanissimi. Il questore ci ha rassicurato sul fatto che non erano fotosegnalazioni ma soltanto identificazioni. La cosa tecnicamente è un po' diversa, però dal punto di vista politico per noi è grave il fatto che il primo referente che incontra un 14enne, un 15enne a Bologna delle istituzioni siano le forze dell'ordine che gli chiedono i documenti, anche perché magari a 14 anni quando vai in centro non pensa a portare dietro i documenti o a incontrare la polizia o a Digos che ti richiede. E quindi su questo noi siamo stati abbastanza chiari col questore, nel senso che noi pensiamo che il primo intervento debba essere fatto da un'altra istituzione. Se c'è un disagio sociale, una problematica che riguarda settori di minorenni e magari minorenni che vengono anche da fuori città, come c'è stato detto, devono intervenire i servizi sociali, non le forze dell'ordine, soprattutto se si tratta di ragazzini giovanissimi che vengono intimoriti, possono avere paura, possono spaventarsi, e sicuramente questo non è che migliora il rapporto fra la cittadinanza e le forze dell'ordine. E secondo noi in primo luogo ci deve essere un intervento del comune. Il questore ci ha detto che loro collaborano ovviamente con il comune, che questo intervento di identificazione è a limite temporale e che il comune interverrà successivamente. Noi pensiamo che vada un po' invertito l'ordine dei fattori, cioè che prima interviene l'istituzione comunale, l'amministrazione, e se proprio devono, dopo le forze dell'ordine, ma sicuramente non sui ragazzini. Voi avete chiamato in causa l'amministrazione comunale non solo appunto per l'intervento con gli assistenti sociali nelle manifestazioni di disagio giovanile, ma anche avete fatto una riflessione sulla vocazione di alcune zone della città. Ma sì, è ormai decenni che in particolar modo la zona universitaria, Piazza Verdi e Piazza Aldrovandi, sono abbandonate a se stesse da un lato e dall'altro lato sfruttate a livello economico in una maniera, come si può dire, non consona alla vocazione culturale di quella zona. Fino a 10, 15, 20 anni fa in Piazza Verdi c'erano centri sociali, c'erano sale studi aperte, autogestite aperte fino alla sera tardi, c'erano sedi politiche. Non nego, anche perché le ho vissute personalmente 30 anni fa, che c'erano anche lì tensioni con le forze dell'ordine, ma in maniera totalmente diversa, su questioni magari di manifestazioni politiche, non sulla quotidianità serale. Oggi, purtroppo, oggi, negli ultimi 10 anni, come dicevo, probabilmente le varie amministrazioni PD e soci che sono oggi al governo del Comune di Bologna, che sono state negli ultimi decenni, hanno fatto scelte diverse. Se a dei ragazzi dai 15 ai 20, 25 anni offri soltanto un tipo di consumo che è pizza, birra e super alcol, non ti puoi aspettare qualcosa di diverso da quello che avviene la sera. E quindi se non c'è una rivitalizzazione culturale, ma anche politica e di socialità diversa della zona universitaria, e tutto questo si è aggravato con i 2 anni di Covid e con il lockdown, se non c'è un partire di nuovo da offrire un altro tipo di aggregazione che non sia soltanto quello del consumo a bassissimo prezzo di sostanze alcoliche, e poi alla notte lo sappiamo benissimo che è stata negli ultimi decenni una zona franca di spaccio di ogni tipo di sostanza, se è questa la zona universitaria non ti puoi aspettare comportamenti diversi da quelli che ci sono. Però anche qui il problema non è delle forze dell'ordine, il problema è delle scelte politiche che vengono fatte, e per decenni sono state fatte scelte politiche completamente disastrose, scegliendo di portare, di emergenzializzare un'intera zona del centro cittadino. Quindi una questione anche di pianificazione, insomma, territoriale in un certo senso. Beh, sì, certo, se si sceglie quella politica lì, appunto, come dicevo, pizza, panini, super alcol, lasciando soltanto come polo culturale il teatro comunale, che però ha ovviamente un'utenza del tutto diversa da quella giovanile, il risultato non può essere che un'aggregazione estemporanea che dà i problemi che abbiamo visto. Cioè, per altri versi, insomma, Via del Pratello è tutta un'altra questione, perché è comunque una zona viva, una zona di socialità, una zona che è stata così ed è così da secoli, insomma. Poi magari Io capisco che qualcuno si lamenta anche per la cosiddetta movida di via del Partello, però è così da secoli, è come se qualcuno si comprasse una casa di fianco alla ferrovia per poi organizzare un comitato contro i treni che passano e fanno rumore. E quindi ci possono essere situazioni che, come è dimostrato, si possono gestire molto meglio e molto bene, senza per questo mandare la polizia tutte le sere o pensare che un presidio fisso di carabinieri, polizia municipale possa risolvere problemi che hanno ben altre ragioni.